Direi che possiamo iniziare, quindi saluto le nostre gentili ospiti e i nostri ospiti che sono questa sera Maria Pia Bigaran, che vedete qui seduta al tavolo dei conferenzieri, Franziska Conte, Gianni Lanzinger e Carlo Bertorelle. Ecco, l'occasione per trovarci qui questa sera nella giornata del libro, che è il 23 aprile, come ogni anno viene festeggiata anche dal Centro Trevi, della Biblioteca Provinciale, questa sera è rappresentata dalla rivista Il Cristallo, rassegna di varie umanità, e quest'anno appunto è il 66esimo anno con il secondo volume dell'ottobre 2024. In realtà noi ci siamo già trovati diverse volte, ma soprattutto voglio ricordare ai nostri ospiti, al pubblico, che la Biblioteca Provinciale alcuni anni fa aveva realizzato la digitalizzazione dei primi 60 anni della rivista, quindi se avete la curiosità di andare a scoprire alcuni articoli e leggere e rileggere alcuni numeri, insomma, della rivista, potete farlo anche comodamente in maniera digitale. Ecco, questo perché abbiamo così la possibilità di offrirvi questo servizio, ma soprattutto lo abbiamo fatto anche per conservare in maniera diversa questi documenti, che sono molto apprezzati dagli storici, dalle storiche, dagli studiosi e dalle studiose, in quanto ci vengono richiesti spesso anche dagli atenei nel resto d'Italia. Quindi, insomma, è molto prestigiosa e utile questa rivista, con i suoi contributi sempre di alto livello. Vi vorrei segnalare, cogliendo questa occasione preziosa, anche la prossima iniziativa, che sarà invece il 29 aprile, con la quale concludiamo un ciclo di 4 incontri dedicati all'ambiente, mercati e comunità, in collaborazione con l'associazione Geschichte Region, Storia Regione, e con l'Università di Trento. Il prossimo e ultimo appuntamento si intitola Stanatura Ognor Verde, geografia storica, patrimonio bioculturale e gestione delle risorse ambientali in area alpina tra il XVIII e il XXI secolo. Questa volta avremo come ospite Nicola Gabellieri del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento. Gli altri incontri sono tutti udibili nel nostro sito alla voce podcast, se vi incuriosisce, ecco, ascoltare quello che è stato negli incontri precedenti. E infine ci sono degli appuntamenti, ci sono le cartoline fuori a disposizione. Il 6 maggio avremo un incontro cercando radici, alla scoperta dei nostri antenati, un incontro di araldica anche dedicata e declinata a livello locale, e poi il 7 maggio invece la presentazione di un libro di Tania Reich dal titolo Jesolo, sempre di ambientazione locale. Ricordo il premio Claudia Augusta, che è il premio per tesi di laurea, per tesi di ricerca che abbiano un'attinenza con il nostro territorio e che quindi siano utili per la biblioteca come documentazione, ma anche siano di stimolo per le giovani e i giovani ricercatori. Bene, a questo punto vi lascio in compagnia dei nostri ospiti, così festeggiamo la nostra giornata del libro ascoltando e riscoprendo la rivista Il Cristallo. Grazie e buona serata a tutti. Ti ringrazio Valeria, ti ringrazio di questa introduzione, e io cerco di limitarmi semplicemente a un brevissimo riepilogo, un po' di alcune notizie, prima di dare la parola ai nostri ospiti, che questa sera abbiamo veramente dei personaggi importanti, è meglio che parlino loro. Siamo di fronte ad alcuni degli autori di questa rivista che hanno una certa continuità anche di collaborazione, tranne Franziska Conte, che è una nuova, diciamo, ma Maria Pia Bigaran e l'avvocato Gianni Lanzinger sono già persone che da tempo collaborano con la rivista. E questa sera sentiremo proprio anche da loro su temi anche di attualità, direi scottante proprio, no? Perché insomma il tema della riforma dello statuto è proprio attualità pura di questi giorni, il tema anche delle questioni legate alla guerra, alla situazione politica generale, alla situazione geostrategica e la questione anche della emancipazione e della parità di diritti nel campo delle donne sono dei temi nel campo, cioè della garanzia dei diritti della donna, è un tema anche questo che, ahimè, è già stato toccato e affrontato già negli anni passati e anche in questo caso nel saggio che riportiamo in questo numero della rivista ha trovato una sua specificazione ben precisa nel campo dei nomi, della odonomastica, cioè dei nomi delle strade, delle piazze e via dicendo. Abbiamo poi un anniversario, tra l'altro, questo numero ricorda anche nel 24 delle figure che erano state significative in quell'anno e di cui ricorreva l'anniversario, una era Giacomo Matteotti e l'altra era Lidia Menapace. Di Lidia Menapace abbiamo parlato più volte, era stata una delle fondatrici della rivista Il Cristallo e proprio nel 24, nel settembre del 24 dell'anno scorso, è stata ricordata anche qui a Bolzano, stranamente da un'associazione di donne che veniva da Napoli, quindi una cosa abbastanza curiosa anche questa. Io sono reduce assieme a Maria Pia Bigaran di un altro incontro recente, il 4 di aprile a Pesaro, dove anche delle associazioni di partigiani e di femministe hanno voluto ricordare con noi, partendo dal libro di scritti di Lidia Menapace che noi avevamo redatto, e hanno voluto ricordare la Menapace. Direi che nella nostra città, stranamente, non è che il nome, la figura, il pensiero, l'opera di Lidia insomma sia stato un po' messo anche da parte, mi sembra, e anche oggi alla vigilia del 25 aprile mi sembra di aver visto che proprio sabato ci sarà una rappresentazione teatrale con gli scritti della Menapace organizzata dal circolo, dal comune Arte del Far Ridere. Però altre commemorazioni, diciamo, di tipo ufficiale non ne abbiamo viste. In questo numero, stranamente, purtroppo siamo sempre in ritardo noi rispetto alle scadenze, rispetto all'attualità, diciamo, però questa volta paradossalmente abbiamo trattato dei temi che sono tornati di attualità nei mesi successivi. La rivista cioè è uscita alla fine del 24 e già i venti di guerra e la situazione mondiale ed europea era altamente critica. Nei mesi successivi si è fatta ulteriormente problematica e quindi l'attualità di questo filo conduttore un po', diciamo, di questo numero, che è, diciamo così, il rischio di un progressivo declino dell'ordine liberale, il rischio di un progressivo declino delle basi democratiche della convivenza in Europa e nell'Occidente, è tornato di attualità. Qui avevamo proprio, lo indica anche la copertina di Sergio Camin, un'idea legata alla Germania, alla situazione molto critica della Germania, che si era andata profilando nei mesi finali del 24 con le elezioni, ma è di oggi la notizia che l'AfD è al primo posto nei sondaggi di preferenze di voto. La critica e la crisi, la situazione critica, di forte crisi che c'è in Francia, altri due pilastri della Unione Europea che vivono un periodo di gravissima stagnazione. E poi in generale in tutto un insieme di cose che la vittoria poi di Trump nei mesi successivi e l'insediamento di Trump con tutte le conseguenze che ha portato, diciamo, hanno ulteriormente aggravato. Quindi abbiamo ancora al centro del panorama internazionale una situazione estremamente pericolosa che suscita una enorme preoccupazione, come tutti sanno, e di cui questo numero, per quanto diciamo, la presentazione era stata fissata già verso la fine dell'anno, no? Poi per motivi anche tecnici di date qui nella Biblioteca Claudio Augusta del Centro Trevi siamo arrivati a marzo e ad aprile, però in un certo senso mi viene da dire non hanno perso di attualità questi temi, a parte che noi non ricerchiamo direttamente l'attualità, ma muoviamo un passo un po' più lento di approfondimento, di critica, di analisi, di riflessione. E quindi questo ritorna ed è di grande utilità. Come è di grande utilità l'intervento che ha fatto Gianni Lanzinger in questo numero e che torna oggi estremamente odierno sulla questione della riforma dello Statuto di Autonomia, che proprio in questi giorni è stata discussa e ha trovato insomma una sorprendente vittoria, diciamo, da parte, almeno al momento, da parte delle forze politiche che avevano patteggiato col governo nazionale, col governo Meloni, questo tipo di intesa. E su questo sentiremo anche le osservazioni di Lanzinger, che aveva già esposto in una petizione, già inviata alcuni mesi fa al Parlamento italiano, in una petizione aveva espresso le sue perplessità e parecchi motivi di critica. Io ringrazio anzitutto anche la nostra redazione, la redazione che si è arricchita anche di diverse persone nuove, sia nel campo della letteratura italiana, della germanistica, non li voglio citare tutti, ma sono una schiera di persone che intervengono con competenza sugli argomenti dei quali ci interessiamo. E non posso neanche dimenticare che in questo numero compare un ricordo molto sentito anche di Massimo Bertoldi. Massimo Bertoldi, che era una colonna, diciamo, storica di questa rivista e che purtroppo è scomparso a fine agosto dello scorso anno. E, come Centro di Cultura dell'Alto Adige e come Cristallo, posso anche dare la notizia che stiamo organizzando, col sostegno anche del Teatro Stabile, a cui Massimo ha rivolto gran parte della sua attività, una raccolta dei suoi scritti, una raccolta dei suoi interventi sulla rivista Il Cristallo degli ultimi 20-25 anni, che costituiscono proprio un'antologia di saggi critici, critica e di storia del teatro. Inoltre la scuola media in cui Massimo insegnava, l'Istituto Comprensivo di Laives, mi ha informato che sta per essere inaugurata e dedicata al nome di Massimo anche un'aula polifunzionale all'interno della scuola. E vorrei informare anche, ci sono alcuni fogli là in fondo, se qualcuno vuole può informarsi un po' sulle caratteristiche tecniche di questa rivista, come poterla sostenere anche economicamente, perché diciamo, la rivista ovviamente costa e i contributi che riceviamo dagli enti pubblici arrivano a coprire una certa parte, ma non tutto, quindi è necessario un sostegno da parte degli abbonati e da parte delle vendite. E lì, se qualcuno è interessato, può trovare effettivamente, oltre ad acquistare questo numero, può trovare le modalità con cui abbonarsi e poter fare anche il bonifico, insomma, per pagare l'abbonamento per il 2025 ai due o tre numeri, che se riusciamo a farli. Ecco, io credo di ricordo anche che tra l'altro la rivista, se uno vuole, viene anche pubblicata online, quindi si può scaricare, come diceva prima la direttrice, non solo i numeri vecchi, i numeri del passato sono stati inseriti in un database, per cui sono fruibili da tutti gli studiosi interessati, eccetera, anche i numeri vecchi, antichi. La rivista è nata nel 1956, quindi ha più di 60 anni di vita. Forse gli dimostra, dirà qualcuno, sicuramente gli dimostra, però noi teniamo abbastanza fede ai nostri principi ispiratori, ecco, che riteniamo ancora di un certo valore in questa temperie di trasformazioni anche digitali, oltre che di fake news e di post-verità che vengono propinate dappertutto. Quindi si può leggere e scaricare anche sul sito della rivista, sito che viene curato da una bravissima persona, Claudio Summa, che è qua presente anche lui, così come il nostro grafico Sergio Camin, volevo ricordare anche lui, che da alcuni anni fa delle copertine particolarmente azzeccate, particolarmente, diciamo, geniali, geniali direi, anche se un po' spiazzanti magari, ma copertine che cercano di condensare un po' il motivo principale che c'è in ogni numero, in ogni fascicolo, che cerca di avere un filo conduttore interno, anche se apparentemente gli argomenti sono vari e spaziano dalla letteratura al teatro, alla politica, alla storia, alle recensioni, anche alle cronache, perché le cronache di Maurizio Ferrandi sono una cosa interessantissima. La musica, dicevo, ma le cronache anche di Maurizio Ferrandi, di sei mesi in sei mesi, che permettono una rivisitazione degli avvenimenti locali della provincia e della regione in generale, con un po' più di distacco, con un po' più di riflessione e di presa di distanza rispetto all'affanno della cronaca quotidiana, insomma, che spesso ci travolge. Ecco, quindi ringrazio tutte queste persone che collaborano a questa impresa e soprattutto ringrazio i tre ospiti di questa sera, che daranno degli input su cose che sono, ripeto, molto attuali per sia per l'argomento in sé, sia per il significato più ampio che questi temi rivestono. Quindi io partirei dalla Franziska Kont, che è una ricercatrice del Centro di Competenze Storiche Regionali e che dirà lei stessa, porta i risultati di una ricerca fatta 2 anni fa circa, no? pubblicata finora solo in lingua tedesca. Sì, esatto. Purtroppo. Stiamo lavorando alla traduzione italiana, però dato che è un'opera di 400 pagine abbiamo bisogno di un po' di tempo. Ecco, buonasera anche da parte mia, innanzitutto grazie per l'invito di poter parlare stasera, anche grazie per la possibilità di pubblicare questo breve articolo sulla rivista Il Cristallo. Io l'ho veramente apprezzato come possibilità proprio per, diciamo, presentare per la prima volta questo lavoro in lingua italiana. Ecco, ho presentato, portato anche alcune immagini per la mia presentazione di stasera. E innanzitutto, come è nato questo progetto di ricerca che si intitola Biografie di donne e nomi di strade? È un progetto di ricerca che non abbiamo, non ce lo siamo inventate noi storiche del Centro di Storia Regionale, ma è un progetto che è stato affidato a noi dalla politica provinciale. Cioè nel 2018 una mozione della giunta provinciale ha deciso di elaborare un vademecum, un manuale per aiutare la politica a individuare donne alle quali intitolare piazze e strade. Quindi è stato affidato a noi il compito di redare, di prendere in mano questo progetto. Abbiamo cercato tra il 2021 e il 2023, quindi già 2 anni fa abbiamo compilato questo lavoro, abbiamo cercato di non fornire soltanto alla politica una semplice lista di nomi, ma abbiamo cercato di presentare, chiamiamolo, abbozzi biografici, schede biografiche di donne che riteniamo donne attive per e nella società e che a nostro parere si prestano bene per una discussione per future intitolazioni. Dico noi, uso il plurale, perché questo progetto è stato condotto da me sotto il coordinamento di Siglinde Clementi. Vorrei partire con una breve introduzione Innanzitutto spiegando cos'è la cultura della memoria e come è legato la categoria di genere alla cultura della memoria. Quando parliamo di cultura della memoria, detto in parole povere, parliamo di come una società, di come un gruppo guarda al passato definendolo come, tra virgolette, proprio passato. Cioè quello che è cultura della memoria non è qualcosa di oggettivo, ma è una scelta soggettiva di ciò che un gruppo vuole ricordare e ciò che invece che rimane nell'oblio. E quindi riflette la cultura della memoria, riflette valori, un sistema di valori attuali. Se guardiamo alla cultura della memoria presente e se guardiamo a uno strumento ben preciso della cultura della memoria, ossia all'odonomastica, la toponomastica urbana, possiamo assistere a questa situazione. Nel 2021 è stata fatta una statistica di tutti i capoluoghi delle regioni e delle province autonome in Italia, e il risultato è stato il seguente: soltanto il 6,6% delle aree di circolazione intitolate a persone sono dedicate a donne. E quindi vediamo in opposizione il 93,4% sono intitolazioni maschili. In questa statistica Bolzano ricopre il primo posto, cioè è la città con più intitolazioni femminili in tutta l'Italia. Però ciò nonostante si deve affermare che comunque non possiamo parlare di un'equa visibilità delle donne nello spazio pubblico, e questa statistica, come già detto, è stato fatto soltanto per i capoluoghi, manca del tutto il resto della provincia, altre città, altri paesi dove la situazione è ben diversa, cioè soltanto dando un'occhiata alla rete stradale di alcuni posti si può notare come non ci sia neanche un'unica intitolazione femminile. Cosa ci dice questo risultato, questo quadro? Ci mostra benissimo che la cultura della memoria attuale è una cultura della memoria fortemente maschile. Cioè questa cultura della memoria, questa costruzione del nostro passato, è un passato maschile e sembra che le donne non abbiano contribuito alla società, non abbiano contribuito al passato, che siano sempre soltanto rimaste in una situazione passiva. E quindi appunto è stata avanzata la richiesta da parte della politica di far vedere tramite un manuale come rendere visibile donne del passato. E per rendere visibile donne del passato, ciò che ci serve sono nuove prospettive sulla storia regionale e sulla storia locale. Noi ci siamo concentrate soprattutto sulla storia regionale e locale perché proprio, diciamo, quella dimensione geografica è una dimensione nella quale molto facilmente si possono individuare donne attive. Però appunto ci servono nuove prospettive, quindi nuove definizioni di cosa sono categorie per intitolazioni. Vorrei farlo proprio vedere tramite esempi molto pratici. Cioè abbiamo la categoria politica. Per rendere visibile donne all'interno di questa categoria politica non dobbiamo pensare alla politica in un modo tradizionale, ma dobbiamo aprire la definizione e guardare anche ambiti che potevano essere ambiti femminili. Cioè dobbiamo considerare anche donne del Medioevo e di metà moderna in posizioni di potere. Cioè le donne potevano appunto in età moderna e in età medievale ricoprire posizioni di governo, molto spesso come regenti per i figli minorenni. In questa situazione, in questo ruolo, queste donne potevano mostrare una reale autonomia, cioè potevano mostrare una propria azione politica. Molto spesso noi, con il nostro sguardo al passato, tendiamo a rendere queste figure come semplici figure di transizione, cioè li vediamo come donne che tengono il posto per i figli, però guardandoli da più vicino, con uno sguardo molto più critico, possiamo capire che in realtà erano figure politiche molto spesso autonome. Un esempio molto famoso, Claudia de' Medici, principessa del Tirolo del 600. Però anche donne, l'immagine qua è un esempio, anche donne ecclesiastiche, donne religiose in età moderna e in età medievale non erano semplicemente donne religiose, ma erano donne politiche, sovrane, secolari, vere e proprie, come questa immagine che ci fa vedere Verena von Stuben, badessa di Castelbadia di Sonnenburg, che mise in atto, cioè si contrappose in una vera e propria lotta politica al vescovo di Bressanone Niccolò d'Accusa, e quindi può essere considerata come donna politica. Inserendo nella categoria di politica donne, dobbiamo anche guardare l'impegno per l'emancipazione e per le pari opportunità. Vediamo qua per esempio l'immagine, la foto di Maria Duccia, personaggio importantissimo quando parliamo di impegno per l'emancipazione, per diritti femminili, però a mio parere anche ancora molto poco conosciuto. Cioè Maria Duccia nel 1910 fondò la prima organizzazione politica per donne in tutto il Tirolo. Fondò nel 1910 appunto la Freie Politische Frauen Organisation Allianz, che era un primo comitato politico in un periodo dove l'azione politica in realtà legalmente non era ancora permessa a donne, e si batté fortemente in Tirolo per la fondazione di altri comitati politici e per il diritto per il suffragio femminile. Poi, ultima immagine per questa categoria, dobbiamo anche pensare alle pioniere in cariche politiche, cioè le prime donne a ricoprire cariche politiche. Anche qua un esempio, vediamo una foto di Elisabetta Conci, nata a Trento nel 1895. Lei fu cofondatrice della Democrazia Cristiana Trentina, entrò come una delle poche donne nell'Assemblea Costituente nel 1946. Era tra l'altro la candidata più votata dopo Alcide De Gasperi a Trento. E come membro nella Costituente fece parte della Commissione per gli Statuti Speciali, e quindi molto importante anche per la provincia di Bolzano. Si impegnò tantissimo per l'autonomia provinciale, per Bolzano, e quindi per un'autonomia separata da quella di Trento. Un'altra categoria dove possiamo discutere attorno, dove dobbiamo mettere in discussione la definizione tra virgolette tradizionale, per esempio la categoria di resistenza. Tendiamo molto spesso a considerare resistenza soltanto ciò che è resistenza politica o politico-militare, e ci dimentichiamo della portata politica di azioni sovversivi in campi definiti femminili. Cioè resistenza può anche significare atti di protezione, atti di cura, di sostegno nei confronti di persone perseguitate, cioè vuol dire attività di approvvigionamento, assistenza materiale, aiuto nella fuga, eccetera. E le immagini che vediamo qua a sinistra, un'immagine un po', sembra un po' cattiva, però in realtà è un personaggio a mio parere veramente eccezionale, la suora Edwina Abraham, superiora dello Jesuheim a Cornaiano, e lei si impiegò tantissimo per la protezione dei pazienti, delle persone con malattia psichica e con disabilità all'interno del suo istituto, cioè cercò in tutti i modi di evitare la loro opzione per la Germania nazista, e quindi cercò di proteggerli contro l'eutanasia messa in atto nella Germania nazista. Dall'altra parte un personaggio forse a Bolzano più conosciuta, tra l'altro il comitato dell'Ampi di Bolzano è dedicato a lei, Franca Tura, membro del comitato di liberazione attivo attorno al lago di Bolzano. E appunto resistenza in quest'attimo non militare, non politico, ma una resistenza tramite protezione, cura, sostegno o, come nel caso di Franca Tura, approvvigionamento per gli internati del lago di Bolzano. D'altra parte possiamo definire anche resistenza tutte le attività di educazione, di formazione clandestina, che in un certo senso si rivolgevano contro l'ideologia fascista, e quindi cercavano di educare i bambini in una maniera ben diversa come voluta dal regime. Porto l'ultimissimo, ci sarebbero tantissimi esempi da riportare, spero che possiamo tradurre presto il nostro manuale, quindi renderlo anche accessibile in lingua italiana, appunto un libro che alla fine è diventato lunghissimo, abbiamo più di 500 pagine, però a questo punto mi vorrei limitare a un ultimo esempio. Cioè ho parlato finora di categorie dove dobbiamo ripensare la definizione, però ci sono altre categorie che nella cultura della memoria al giorno d'oggi mancano del tutto. E una categoria sarebbe per esempio la categoria della cura, cioè quando pensiamo alle intitolazioni di strade e piazze ci dimentichiamo dell'ambito di cura, dell'ambito di beneficenza, di impegno sociale, nell'ambito dell'educazione, dell'assistenza, della formazione. E questo è un aspetto che quando parliamo di cultura della memoria manca del tutto, come se la cura non avesse una storia, come se non fosse degna di storia. E quindi ci dimentichiamo anche di tantissime donne attive in questo campo. Vi riporto qua soltanto due immagini. A sinistra vedete una foto di un ospedale militare della Prima Guerra Mondiale, dove si può notare benissimo che le infermiere sono donne, e a destra una pubblicità che io ho trovato molto carina, una pubblicità di una levatrice di Brunico che l'ha pubblicato in un giornale locale, facendo appunto pubblicità per la sua attività da levatrice. L'ho inserito anche per il fatto perché la figura delle levatrici, ossia delle ostetriche, erano figure importantissime per l'ambito locale, che però al giorno d'oggi nella cultura della memoria mancano del tutto, anche se appunto erano persone di riferimento molto importante. Concludo con un'ultima immagine, cioè questa immagine qua, perché molto spesso venga chiesta: ma le fonti per la storia, cioè per queste prospettive ci sono? Quali fonti possiamo utilizzare? In realtà la domanda o la risposta a questa domanda è molto facile. Le fonti sono sempre le stesse, bisogna soltanto leggere con altri domande e con altri occhi. Per esempio, quello che vedete qua è una pagina di un libro parrocchiale, di un libro di battesimo del 1869. È una delle fonti più considerate nella ricerca genealogica, perché è proprio possibile tramite questi libri dei battesimi ricostruire quando una persona è nata, i genitori, il posto di nascita, madrini, la madrina, il padrino, eccetera. E molto spesso non si vede questa colonna qua, cioè vediamo la ebame, la levatrice. Abbiamo quindi per tutta la provincia questi libri tramite i quali possiamo capire dove lavorava una levatrice, per quanto tempo, come si cambiava, come si chiamava, a quanti parti esistiva, eccetera. E quindi questa fonte che usiamo al giorno d'oggi molto spesso per la ricerca genealogica, in realtà la possiamo anche utilizzare per dare visibilità a donne del passato. Ecco, vorrei concludere a questo punto il mio intervento. Grazie per l'attenzione. Spero di... Sono stata un po' lunga. Grazie Franziska Kont, sarà interessantissimo vedere quando questa ricerca sarà pubblicata in lingua italiana, ma soprattutto, e questo anche l'avevamo specificato nella cornice in cui era stato pubblicato il suo articolo, se e quando le amministrazioni comunali della nostra provincia, cioè i 110-111 comuni a cui spetta la definizione del nome delle vie e delle piazze dei loro comuni, faranno tesoro di queste indicazioni e effettivamente daranno delle nuove denominazioni. Qui ci vuole una volontà, evidentemente una volontà culturale, una volontà politica per fare questo passaggio, no? Da parte, appunto, tu dicevi spesso la politica chiede, la politica fa, ma la politica poi sono in questo caso le amministrazioni dei comuni, che dovrebbero essere sollecitate da questo vostro stimolo e dal Consiglio Provinciale, che si è limitato a pagare e finanziare questa ricerca e poi ha lasciato tutto così, diciamo, in sospeso. Fate vobis, vedete voi quello che volete fare. Magari in tanti comuni neanche lo sanno che è stata fatta questa ricerca con l'individuazione di figure molto significative a cui dedicare la nuova via, il nuovo insediamento urbano, eccetera. Va bene, scusate se mi dilungo. Passiamo adesso alla professoressa Bigaran di Trento, storica, che ha svolto una ricerca e una relazione e poi anche un articolo pubblicato sulle corrispondenze politiche, e in questo corrispondenze cioè di uomini e donne del mondo politico. In questo caso ha analizzato una parte del patrimonio epistolare di Lidia Menapace. Allora, grazie a voi, grazie a Carlo Bertorelle e al Centro Trevi per l'invito molto gradito. Allora, cercherò in breve di raccontarvi quello che ho scritto in questo articolo, che riguarda appunto la corrispondenza privata e politica di Lidia Menapace. Naturalmente immagino che voi conosciate bene la sua figura e quindi non sto a presentarla. Dirò solo che gli scritti politici che appunto abbiamo antologizzato e proposto in una partizione tematica con Carlo Bertorelli, molti suoi scritti politici in realtà riecheggiano di frequente forme di scrittura privata. Appunto le lettere come quelle che ha scritto quando era senatrice, oppure le interviste, forme colloquiali, relazionali, un linguaggio insomma poco accademico. Quindi la sua vocazione politica, che era molto forte, molto decisa fin dalla giovinezza e appunto dalla Resistenza, lei si è affacciata in qualche modo, è stata un'iniziazione politica cominciata con la Resistenza. Ecco, questa forte vocazione politica che sappiamo poi continua con la militanza nella Democrazia Cristiana, poi con la scelta marxista, col femminismo e con il pacifismo, si accompagna, e quindi diciamo il suo interesse per la politica è indiscutibile, ma da sempre si accompagna ha un'attenzione vivissima appunto alla dimensione quotidiana, quella di cui ci parlava anche Franziska. Lei scriverà molto sull'importanza di tutta la sfera di cura e anche proprio della dimensione quotidiana, della dimensione, come dire, dell'importanza dell'essere calati sempre nel qui e ora, quando si fa politica e quando anche si, come dire, si sceglie, no? Un obiettivo, un'azione politica. Allora, dico ancora che purtroppo i suoi archivi sono divisi in due, anche se in realtà credo da un punto di vista formale dovrebbero essere riuniti. Invece lei ha versato in vita una parte del suo archivio alla Casa Internazionale delle Donne ad Archivi a Roma, una parte invece dai parenti è stata data a un'amica di Lidia Menapace, Rosangela Pesenti, che l'ha versata a Bergamo presso l'Istituto della Resistenza. Ecco, questi due archivi purtroppo non sono facilmente consultabili o forse per niente consultabili, perché non sono ancora inventariati, e quindi tutti speriamo che invece presto si possa accedere a queste carte. Quando mi hanno chiamata a Perugia per parlare in un convegno sulla corrispondenza di Lidia Menapace, allora ho dovuto ricorrere a questo libro, dove ci sono più di una trentina di lettere pubblicate dalla ricevente, che è Ileana Montini, una sua compagna militante della Democrazia Cristiana e poi nell'area della sinistra, un po' più giovane di lei, Lidia Menapace, donna del cambiamento. Quindi ho analizzato, diciamo, queste lettere, i contenuti di queste lettere, cercando poi di metterle anche a confronto con invece i contenuti dei suoi scritti politici, cioè per vedere, no, cosa, in che modo arricchiscono, diciamo, il suo percorso e la sua figura. Naturalmente nelle lettere emerge molto di più questa compenetrazione, diciamo, tra pubblico e privato, e ne esce una biografia collettiva insieme a questo senso della vita mentre si fa, no? Così come si sta svolgendo. La lettera ci riporta sempre la dimensione del qui e ora, del cosa faccio adesso, e spesso nelle lettere, no? Ti scrivo dopo aver mangiato, dopo che sono arrivata, partita, mentre sento una notizia alla radio, eccetera, eccetera. Allora dirò in breve che cosa ho pensato, insomma, di far emergere da questo confronto, e poi magari colgo la sollecitazione di Carlo per fare solo due considerazioni sull'attualità del pensiero e anche del, come dire, del metodo, dell'esperienza di vita anche di Lidia Menapace. Allora, la prima cosa che emerge da queste lettere e che emerge molto meno invece, dagli scritti politici, è, diciamo, il suo stile di vita come militante, come attivista. È una vita con una mobilità davvero quasi esagerata, è una vita nomade, e in questa sua mobilità lei naturalmente contatta e frequenta tanti soggetti politici, luoghi disseminati in tutto il paese e non solo, centri, periferie, paesi, piccole città, comunità, case, amici, sempre in treno, stazioni, incontri nelle stazioni, è famoso quello con Alex Langer, una notte di pioggia. Vi cito solo tre righe perché secondo me danno molto l'idea. Lei scrive a questa amica nel 90, nessuno riesce a contattarmi, mentre era alla Regione Lazio, perché il telefono è rotto, ma ti dico che il 12 sono a Bolzano, il 13 in provincia di Pistoia per una festa dell'unità, il 14 ad Arezzo, il 15 ad Ancona, il 16 a Roma per il seminario della direzione del PC, il 17 a Roma per incontrare Livia Turco e Anna Tantini, il 18 alle Frattocchie per un seminario delle donne, il 19 alla festa dell'unità di Albano, il 20, 21-22 a Bisceglie. Poi, se avevo un recapito telefonico, chissà come facevo. Ecco, quindi proprio una donna, come dire, itinerante. Tra l'altro, mentre così in queste presentazioni degli scritti di Lidia Menapace, più volte persone che l'hanno conosciuta, è successo a Bologna, è successo anche a Pesaro, ti ricordi? Lei era già anziana e cercavano di prenotare un albergo e lei non voleva, diceva no, io preferisco andare ospite da qualcuno perché per me è un'occasione importante di conoscere, di approfondire, di stare con amici, eccetera. Allora, questo è un primo dato che secondo me, ripeto, ha a che fare poi anche con il suo pensiero politico. Volevo solo ricordare che questo nomadismo viene nel pensiero femminista molto valorizzato, in particolare da una filosofa che si chiama Rosy Braidotti, proprio perché questa, diciamo così, riconoscersi quindi in più luoghi, attraversare più luoghi, è una, come dire, una caratteristica capace di far abbandonare un pensiero dogmatico, un pensiero sedentario, e va a rafforzare quest'idea di un soggetto non unitario, non fermo, ma in trasformazione, no? Quindi per privilegiare, come diceva Menapace, l'idea di un processo più che di un progetto, un processo attraverso il quale tracciamo molteplici trasformazioni e molteplici modi di appartenenza, ognuno dipendente dal posto in cui ci troviamo e dal modo in cui cresciamo. Ecco, faccio subito appena un accenno all'importanza di questa valorizzazione delle differenze e rifiuto di irrigidirsi in un progetto, pensando anche alle riflessioni, appunto, che il pensiero femminista, femminile, ha fatto nel corso dei decenni sull'Europa, che è un problema che oggi ci tocca, perché è un pensiero che valorizza invece che essere frenato, diciamo, dalle differenze, in questo caso dalle differenze nazionali, quindi propone, diciamo, un rifiuto del nazionalismo, ma non delle tante identità, ma un'idea relazionale, diciamo così, delle identità, che anche aiuta a riconoscere quello che c'è già, no? Quello che il cammino, per esempio, che si è fatto verso l'unità europea, anziché pensare sempre, diciamo, a qualche cosa che non si raggiunge mai, cioè qualcosa di retorico, di compiuto, che quindi fa aumentare questo senso di frustrazione. L'altra cosa che volevo dire riguarda quello che un po' potrei dire i disagi invece della politica, le difficoltà della militanza politica, che accompagnano, cioè lei era, si dice di, dice di essere stata molto felice nella sua vita e per aver proprio partecipato ai movimenti, ecco, è stata meno felice, e lo vediamo dalle lettere, molto meno dagli scritti politici, invece nella, come dire, nella routine politica e anche nei momenti di duro confronto, per esempio nella corrispondenza viene fuori il suo dolore, la sua, il suo profondo disagio quando lascia la DC, quando è costretta a abbandonare, costretta, sceglie di abbandonare il partito, e è però profondamente disorientata, profondamente angosciata, anche se è al punto che dice: ho fatto molti tentativi di scrivere in modo equilibrato e chiaro alcuni argomenti e sono sempre rimasta a metà. La rabbia che ho in corpo non mi permette di scrivere articoli pubblicabili. Cerco di non lasciarmi prendere dalle prospettive di contestazione globale, di rifiuto totale. Non ho risposte, non trovo chi ne abbia, sebbene legga furiosamente molto di ciò che si stampa e parli non meno furiosamente con chiunque mi capiti a tiro. E quindi, cioè, non riesce a scrivere, no? Ecco, anche se poi nella lettera di dimissioni allega, diciamo, un'analisi della sua scelta molto lucida, no? Poco dopo, insomma, la scrittura di questa lettera, e elenca molto chiaramente, molto lucidamente la sua critica alla DC. E facendo, ecco, poi anche un libro in seguito, secondo me molto lucido anche nella parte che riguarda proprio la militanza, diciamo, femminile nella DC. Comunque anche dopo la scelta, dopo 2 anni per esempio che è uscita dal partito, scrive: ho tuttavia un sentimento di colpa nei confronti di tante persone, per esempio come te, che ho certo contribuito in altri anni a coinvolgere nella DC e alle quali non posso ora offrire niente di concreto se non un impegno di milizia così stremante e criticato da non essere certo messo davanti come alternativa gradevole. E ancora, leggo un'altra riga, non si regge, questo mentre milita già nel manifesto, non si regge la precarietà, non è possibile tenere a lungo in una transizione che tanto più è costosa sotto il profilo umano di quanto addirittura non lo siano la durezza dello scontro sociale e le difficoltà economiche. Invece, cioè, di politicizzare, socializzare, rendere comune, comunicativo e superabile il personale come privato, si finisce per privatizzare il politico. Mi rendo conto che sono parole, vabbè, insomma, non voglio leggere ancora, ma dopo altri 5 anni di nuovo parla dei dissapori nel manifesto e dice: viene il giornale una vera battaglia e questo non mi spaventa. Ciò che mi spaventa è che sia condotta per lo più con metodi subdoli e addirittura ignorata, paralizzata, resa come inerzia compatibile. Ecco, quindi secondo me queste non sono appunto lamentele, ma sono una specie di controcanto appunto invece alla sua gioia proprio, no? Alla sua scelta di essere un'attivista infaticabile. Quello che però la fatica evidentemente sono, come dire, è una partecipazione non significativa, non importante, ma appunto fatta di liti sterili, di personalismi, una politica, diciamo, che non le corrisponde, e forse anche per questo cambia, no, così spesso lascia, abbandonerà il manifesto, poi si relaziona all'UDI, però ecco, non ha un percorso, diciamo così, univoco. Io ho già parlato troppo, quindi vi dico solo, e non sto a entrare nel merito, sennò poi, che un terzo punto riguardava proprio il suo, un terzo punto importante che viene fuori da queste poche lettere, insomma sono 33, 34, è il fatto che si capisce molto meglio, mentre non si capisce questo dai documenti politici, tutte le sfumature interne alle tante realtà del femminismo, tanti gruppi, e lei nelle lettere, sono lettere politiche in realtà, analizza queste difficoltà, no? E anche esprime delle sue opzioni, per esempio l'importanza del linguaggio, del sapersi, diciamo così, di non avere una spinta eccessivamente fusionale, troppo, diciamo, legata alla psicanalisi. Lei vuole, diciamo così, avere un suo terreno anche di tranquillità, di elaborazione anche personale. L'altro punto è sulla memoria. Lei dice non molto di sé, ripeto, sono lettere politiche, però sulla memoria, per esempio, dice che davvero vuole arrivare a trasmettere, e lo farà soprattutto nel rapporto con Ludi, il significato del femminismo della differenza, no? Che lei ha conosciuto negli anni 70. Qui chiudo solo per ritornare a dire quello che ho accennato a proposito del concetto di nomadismo, di Europa, della valorizzazione delle differenze, no? Perché Lidia Menapace ragiona molto anche sulle forme della politica e diciamo ritiene superata la forma partito, ritiene inutile appunto irrigidirsi in un progetto, parla piuttosto di teoria dell'occasione, cioè di appunto una capacità di immergersi nella realtà e di partire dalle occasioni che la realtà, no, che il qui e ora ci offre. Un atteggiamento, insomma, secondo me, che non è solo suo, ma che lei, la valorizzazione della molteplicità che deve aiutare, non frenare, e questo mi sembra valido sia quando riflettiamo sull'Europa in un momento drammatico di rottura, no, dell'Occidente così come l'avevamo conosciuto, e sia anche, credo, per aver letto le cose che ha scritto Lanziger sull'autonomia, anche per, come dire, per prendere dal verso giusto questa questione dell'autonomia, che appunto, secondo Lidia Menapace, doveva partire proprio da una comunità che valorizzi le tante differenze, no? E che non invece le svilisca o le tratti come si trattano, che verrebbero svilite con un concetto appunto solo di tutela di una minoranza. Grazie. Allora adesso grazie Maria Pia. Speriamo che queste parti fondamentali degli archivi delle lettere, delle opere, degli scritti di Menapace che non sono stati pubblicati già finora, e ce n'è una grande quantità, vengano rapidamente, insomma, da coloro che li gestiscono. Si tratta di, da quello che ne so, lettere private, anche poesie, corrispondenza, parecchio materiale. C'è la speranza che chi è riuscito ad averne, diciamo, la disponibilità faccia velocemente questo lavoro di ordinamento e di riorganizzazione di questi scritti, e possano essere accessibili ovviamente anche al pubblico, proprio per poter conoscere molto meglio, in maniera più completa e scientifica, l'insieme degli scritti di Menapace. Sì, anche i movimenti, come dicevamo con Francesca, degli anni 70 che si cominciano a studiare, i contemporaneisti adesso si occupano di questo, e quindi sono fonti davvero preziose, proprio perché non solo per gli appunti, le corrispondenze personali, ma anche per tanto opuscolame che non è, per esempio, che non si trova nelle biblioteche, gli appunti, le lettere politiche, insomma, per tante cose. Non è, cioè, una cosa solo per studiosi, io mi auguro, ma possa diventare veramente una, un patrimonio, diciamo, anche per le giovani generazioni, insomma, patrimonio della nazione, non di una fazione, come ha detto giustamente Aldo Cazzullo a proposito della Resistenza giorni fa. L'ha scritto sul Corriere della Sera, patrimonio della nazione e non di una fazione, mentre viene diffusa l'idea che sia stata una cosa solo del mondo dei comunisti, insomma, no? E quindi per questo l'antifascismo va depurato. Bene, scusatemi la digressione e chiedo scusa a Gianni Lanzinger se abbiamo fatto aspettare il suo articolo, la sua petizione, compone 10 pagine del Cristallo e erano veramente fondamentali, però ne ha parlato quasi nessuno nei mesi scorsi quando questa petizione è stata in effetti redatta e inviata alle autorità istituzionali e agli organismi parlamentari, al Presidente della Camera, al Senato, eccetera. Adesso è tornata estremamente di attualità, perché molte delle critiche e delle osservazioni critiche fatte dal giurista ed ex deputato anche Gianni Lanzinger sono state trovate estremamente puntuali e pertinenti anche da molti commentatori di oggi. Grazie. Dunque io inizio dicendo che con Lidia Menapace abbiamo mantenuto una comunità di ricordo che è qualcosa di più che non semplicemente la memoria. È una comunità che in qualche modo pensa di mantenere nella contemporaneità alcune convinzioni, alcune adesioni a dei valori e, per quanto riguarda l'autonomia, una scelta di parte che Lidia Menapace ha fatto e che in qualche modo ci ha trasmesso, perché Lidia è stata educatrice di generazioni e una delle protagoniste in realtà di questa cultura dell'autonomia che si distanzia in modo netto rispetto a un'altra cultura dell'autonomia che è quella invece di carattere etnocentrico. Dunque Lidia ha fatto, e questa è stata per la politica dell'Alto Adige sul Tirolo, una grande innovazione, un punto di svolta epocale, organizzata assieme a Farias un convegno col Mulino, la rivista, l'importante rivista culturale, qualcuno c'era e si ricorda, l'importante rivista culturale bolognese, un convegno che ha consentito, nell'epoca in cui in realtà la situazione stava lievitando verso un terrorismo diffuso, lo Stato italiano in quel tempo era in qualche modo preda di tentazioni anche golpiste, beh, ha consentito un confronto leale tra le diverse posizioni, Volkspartei, Democrazia Cristiana, Partito Comunista e la cultura, soprattutto la cultura degli intellettuali, sulla possibilità di uscire da questo stallo che era la difficoltà di identificarsi per parte della gente del Sud Tirolo, identificarsi con questa autonomia, per parte tedesca e per parte italiana. Per parte italiana era molto presente il richiamo nazionalistico, i partiti di destra organizzavano manifestazioni seguite dagli studenti, la Volkspartei si trovava nelle condizioni di essere in qualche modo al bivio tra una sotterranea adesione a delle ipotesi di alternativa radicale o la trattativa con il governo, che peraltro era a quel tempo retto da Scelba per quanto riguarda gli interni. Lidia ha proposto e ha ottenuto, attraverso una competenza straordinaria, ha ottenuto questo confronto che poi in qualche modo ha avuto un seguito, non era solo per questa ragione, insomma, ma il convegno è segnato per l'opinione pubblica della provincia un grande punto di svolta. Ecco, questo lo voglio dire perché io credo che, parlando di autonomia, e l'occasione è fondamentale, questa occasione è fondamentale, l'occasione cioè che sia una rivista come il Cristallo che avverte l'opinione pubblica che c'è un dibattito in corso, o meglio che ci dovrebbe essere una dilatazione di un dibattito sull'autonomia intesa come autorappresentazione della stessa convivenza sociale, come momento di riconoscimento inclusivo di differenze, come momento di rapporto anche tra società civile e governo. Bene, questa proposta che ha fatto il Cristallo secondo me è essenziale e che viene mantenuta, e forse riusciremo a fare qualcosa che abbiamo fatto assieme con l'Accademia di Dialogo di Luppad nel 16, un convegno precisamente su questo tema. Cioè, che cosa è autonomia? Che cosa vuol dire cultura dell'autonomia? Fino a che punto questa cultura riesce a entrare nelle norme? Perché il punto fondamentale è questo. La norma, senza una cultura che la sostenga, che la animi, senza, per così dire, anche una norma che non si ispira a delle idealità, a dei progetti che si inclinano verso il futuro, la norma può essere semplicemente, come la si intende negli apparati, diciamo, di governo provinciale, una norma di semplice autogoverno. Quindi non un qualche cosa che sostiene, rafforza, alimenta e orienta la società civile, i cittadini, ma piuttosto un modo che rafforza il potere di gestione delle cose correnti. Quindi alla fine il principio di autonomia da questo punto di vista può essere banalizzato. Anche l'aver affrontato l'autonomia come un dato prevalentemente di carattere diplomatico internazionalistico, rapporti con l'Austria, costante e ossessivo richiamo all'accordo di Gasperi-Gruber, l'aver affermato che l'Austria come potenza di tutela deve essere informata e consentire a qualsiasi riforma dello statuto che in qualche modo possa essere diversa da quanto il pacchetto aveva previsto, in base a quel pacchetto vi fu la quietanza liberatoria. Già questo fatto di voler, per così dire, esportare al di fuori della società civile di questa regione le decisioni fondamentali su questa convivenza, già questo è una forma alienante, già questa è una forma che nega il principio democratico dell'autonomia come non autogoverno soltanto, ma come autodeterminazione e prima ancora come capacità di identificazione e di autorappresentazione e di identificazione dei valori. Addirittura si direbbe quasi un trasporto affettivo. Di questo c'è anche bisogno, ed è questo che poi io nel breve intervento che voglio fare voglio riprendere. Cioè, non esiste la possibilità di avere uno statuto che corrisponde per noi a una forma di costituzione senza che si crei all'interno di questa popolazione, con tutte le diversità che ormai sono moltiplicate, un trasporto di carattere emotivo. Non è questione di ragione, ma questione di sentimento. Tu devi sentire questo. Il patriottismo che veniva identificato come patriottismo costituzionale, luogo del patriottismo nazionale, il patriottismo costituzionale, il patriottismo verso le regole del buon governo, ma anche le regole della buona presenza della società civile, deve essere un elemento di affetto, deve essere un foyer sentimentale, per così dire, ed è questo che manca. Perché manca? Beh, manca per una ragione molto semplice, perché gli organi di governo provinciali, non solo Trento ma anche Bolzano, hanno ritagliato gli spazi per la gestione dell'autonomia all'interno del chiuso degli uffici provinciali. In pratica, lo dico come sintesi, insomma, di quello che si potrebbe poi vedere nel dettaglio, se voi guardate quali sono le richieste fatte all'origine, si parla della richiesta nel marzo 24 fatta dal Presidente della Giunta di Bolzano, e quelli che sono poi gli approdi dell'accordo tra governo e i due presidenti delle due province, che sono quelli appunto del recente testo, questo di aprile, beh, vedete che quello che conta per questi interlocutori era in realtà come avere semplificato la pratica di governo. Meglio ancora, o peggio ancora, come vincere le cause in Corte di Cassazione o in Corte Costituzionale. Questo è, l'assurdo è che l'autonomia è semplicemente vincere le cause alla Corte Costituzionale. E difatti una delle lamentele per cui si muove la richiesta di autonomia non è, a distanza di più di 10 anni, l'imperativo previsto dalla legge costituzionale del 2001 che mette ad articolo 10 l'impegno delle speciali, delle autonomie speciali a riformarsi in adesione alle novità della Costituzione titolo quinto, questa legge. Non è questo il motivo che muove la trattativa, ma invece un'affermazione che, secondo le giunte, e qui è solo di nuovo questione di giunta, ma non è neanche questione di consiglio, si è visto ieri, no? Quando poi non si è messo il voto per le singole parti della proposta, ciò che muove la giunta è: ma perché noi non potremmo attraverso questa riforma ottenere uno spazio maggiore nelle nostre controversie con la Corte Costituzionale nei confronti dello Stato? Allora si vede, poi quasi quasi, cioè la le proposte di riforma poi ottenute hanno quasi una fotografia rispetto alle controversie in atto dalla provincia e avvocatura dello Stato. La cosa è paradossale a dirla così, ma poi è vera. Io ho sentito Fugatti che ha ritenuto che il massimo, no, successo della provincia di Trento è stato quello che nella riforma dello Statuto si parla della facoltà che Fugatti ha di controllare l'orso. Cosa c'entra controllare l'orso? Cioè, questa è la riforma che è crollata da quello che era l'empirio dell'impossibile, ossia addirittura dare alla commissione bilaterale della commissione dei 6 e dei 12 dare un potere di interdizione rispetto alla riforma costituzionale dello Stato. Questo era l'inizio. Poi alla fine, questo evidentemente era una richiesta inaccoglibile, alla fine cosa rimane? Rimane una modestissima e soprattutto molto povera trasformazione di quello che era lo statuto del 72, quindi non siamo a tempi, diciamo, recentissimi, in una novità che di novità non ha nulla, se non una cosa fondamentale, e di questo ne voglio parlare subito, poi magari lo possiamo affrontare meglio, se non una cosa fondamentale, perché tutta questa operazione, forse al di là di quello che era percepito da chi era al tavolo trattativa, ha una cifra rivelatrice. Ed è una cifra che ci dà finalmente ragione quando si diceva, attenzione, che tutto quello che è nel pacchetto e tutto quello che dal pacchetto passa allo statuto, e qui evidentemente faccio riferimento anche alla parte che ha avuto molto importante Berloffa in questa vicenda, e abbiamo per fortuna i verbali delle riunioni della Commissione 19 che ha raccolto Postal e che ha pubblicato con Marcantoni in un pregevolissimo volume che io suggerisco, che è la storia del pacchetto così come realmente è andata. Bene, in questi dibattiti risultava chiaramente che alcune delle richieste che poi passano nel pacchetto non sono affatto collegate con l'accordo di Gasperi Gruber. Tra queste, quello che non è collegato per espressa affermazione del proponente, l'onorevole Lucifredi, della sottocommissione, presidente della sottocommissione che stabilisce la regola della proporzionale secca, rigida, Lucifredi dice: propongo questa soluzione per trovare l'accordo con la parte politica, affermando che però questo non ha niente a che vedere con gli obblighi di cui all'accordo Gasperi Gruber. E che la stessa cosa, che è chiaramente fuori da quel vincolo internazionale, vale per l'altro elemento spurio, evidentemente di nuovo contrario ai principi europei, se non altro, dei diritti del cittadino, che era l'obbligo di avere 4 anni di residenza prima di votare nelle amministrative in provincia di Bolzano. In provincia di Trento è sufficiente 1 anno di residenza. Bene, allora, qui la cosa che mi pare sia clamorosa è che si è arrivati al punto da trasformare i 4 anni in 2 anni. 2 anni sono ancora ingiustificati, perché in realtà sarebbe il massimo che si può pensare di perdere il diritto di voto, diciamo un anno, no, di residenza, perché 2? No, vabbè, la media tra 0 e 4 era 2, e quindi siamo arrivati a questa specie di conto aritmetico. Ma attenzione, questa norma, i 4 anni, fanno parte del pacchetto, e questa norma come pacchetto è entrata nello statuto dell'autonomia, nella riforma, nel secondo statuto, e su questa norma c'è stata la quittanza liberatoria. Ora, avendo ottenuto che questa norma venisse modificata, si è aperto lo spazio per un'altra interpretazione. Ripeto, quello che sto dicendo, però, come vedete, è un argomento puramente giuridico. Magari qui abbiamo la professoressa, quindi potrebbe dire costituzionale, no? Perché la Costituzione qui c'entra e non poco. Però quello che io sostengo è che la nostra cultura, quella che deve essere la cultura dell'autonomia, la vera cultura dell'autonomia, non è la cultura giuridica delle virgole o degli accenti, ma è piuttosto una cultura che giustifica il perché stiamo assieme. Giustifica quella che noi dobbiamo riconoscere come comunità di destino. E questa comunità di destino prescinde dall'appartenenza linguistica, prescinde anche dalle misure transitorie che nel 72, nel 69 sono adottate per evitare che ci fosse una soccombenza o quantomeno uno sfavore per una comunità linguistica piuttosto che un'altra. Allora, se così è, e qui mi rifaccio a quella che è stata anche la proposta, le proposte innovative di una comunità interetnica che vengono dai tempi in cui Langer faceva la battaglia politica su questi argomenti, sul censimento etnico, eccetera. Ma mi rifaccio soprattutto ad un'altra sponda molto importante, che qui è completamente pretermessa. È la sponda della grande cultura europea sulla autonomia, sulle autonomie, non sull'autonomia. Perché senza di che anche gli alambicchi, diciamo, che vengono rimestati tra Roma e Bolzano, tra Roma e Bolzano Trento, non hanno nulla a che vedere con la democrazia. Tu puoi avere un statuto di autogoverno in cui viene trasferito al potere locale una parte importante di quello che è il potere nazionale, che peraltro per buona parte ormai, come sapete, ha avuto la devoluzione del trasferimento di sovranità alla Unione Europea, perché questa è la cornice nella quale questo statuto ancora non sembra collocato, perché di questo non se ne parla assolutamente se non attraverso una frase dove si dice che i limiti dell'autonomia esclusiva della provincia di Bolzano e Trento e della regione sono anche le normative della Unione Europea. Vabbè, insomma, questo era già evidente prima, ci mancherebbe altro. Particolare non da poco, c'è stata e c'è una tale disattenzione rispetto anche al significato costituzionale dello statuto e al significato dei diritti della gente per quanto riguarda lo statuto, che una norma riconosciuta pacificamente come in contrasto con l'Unione Europea, quindi inapplicabile, quindi per così dire una norma ormai morta perché è una norma incostituzionale, l'articolo 10 che prevede ancora adesso nel testo che è ancora in vigore anche con questa riforma, che tra l'altro non è una riforma avvenuta, teniamo conto che questa riforma deve passare attraverso quello che è l'ambito suo proprio della norma costituzionale statutaria, che è il Parlamento. Quindi questa è soltanto una proposta governativa concordata con le due, non con le province, ma con i due rappresentanti, presidenti delle due province, che dovrebbe essere proposta poi al Parlamento. Il Parlamento è sovrano, ci mancherebbe che debba tener conto di questo. Io credo che sia importante che ci si faccia sentire proprio per questo. Tutto il dibattito pubblico, perché la questione non riguarda soltanto la provincia di Bolzano e Trento, ma riguarda l'intera nazione, tutto il dibattito pubblico deve essere aperto e possibilmente fatto risaltare, risuonare anche a Roma. perché di questo, cioè della riforma degli statuti, se ne parla non soltanto per Bolzano-Trento, ma se ne parla anche nelle altre regioni, Val d'Aosta, le due Sicilie, la Sicilia e la Sardegna, il Friuli Venezia Giulia naturalmente. Cioè, in tutte le regioni a statuto speciale si sta lavorando per una riforma dello statuto che dovrebbe essere impegnativa e obbligatoria a partire dal 2001. Però mi pare che anche in queste altre regioni ci si muove molto poco. Quindi aprire il dibattito, parlarne, cercare di portare dentro i contenuti del dibattito le proprie opzioni, opzioni che devono essere anche in qualche modo le proprie visioni di un futuro praticabile, devono essere in qualche modo la propria la capacità di rappresentare una società inclusiva, una società dei diritti. Bene, dicevo che da questo punto di vista le altre regioni e autonomi speciali hanno fatto ben poco. Perché? Perché hanno tutti questa specie di sindrome della gabbia dorata, per cui il paradosso qual è? Che volendo garantire alle speciali un'autonomia non in qualche modo revocabile, quindi intangibile, si è dato fin dall'inizio, cioè fin dai tempi dell'Assemblea Costituente, si è dato alle regioni che erano prima quattro, poi diventano cinque, le Friuli entra soltanto nel 63 tra le regioni autonome speciali, si è dato alle regioni speciali un castello munito che è la legge costituzionale. Le altre regioni invece, tutte le altre regioni, lo statuto se lo fanno loro. Allora io per esempio ho qui con me lo statuto della regione, lo statuto d'autonomia della regione Lombardia e io vorrei che lo si potesse confrontare. Questo ha i primi articoli, non meno che la Costituzione stessa peraltro, in cui si parla non di uffici, di poteri, di elezioni, si parla di elementi qualificativi della regione. La regione riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione a riconoscimento e a rispetto della sua dignità mediante tutela e promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo. Promuove la libertà dei singoli e della comunità e giù. Ecco, tutto questo, per esempio, voi capite cosa vuol dire una cultura autonomistica, una cultura dell'autonomia? Non è la cultura dell'avvocato che deve cercare di vincere causa, perché deve fare in modo che in materia di appalti pubblici le regole per quanto riguarda i contratti siano quelli decisi in giunta provinciale a Bolzano e non invece quelli che dovrebbe essere coerente con la disciplina sulla concorrenza europea. Perché tra l'altro c'è anche da dire che molte delle sentenze criticate in questa proposta di riforma, che inizialmente era addirittura una rivendicazione a riprendere ciò che la Corte Costituzionale avrebbe sottratto, poi in realtà alla fine non è più così, non se ne parla più di questo perché non era fondata l'argomento, però in molte di queste sentenze che vengono criticate dalla Giunta Provinciale risulta che la Corte Costituzionale ha difeso i diritti dei cittadini, ha difeso i diritti dei cittadini rispetto all'amministrazione. Quindi non è detto che la provincia di Bolzano di per sé, essendo più autonoma, avendo più potere, comporti anche un maggior potere per la società. Anche di questo bisogna parlare. Adesso io non vorrei dilungarmi troppo, anche perché immagino che potrebbe essere interessante invece fare un breve scambio di opinioni, no? Io vi solleciterei su questo. Dico solo due parole per dire come va a finire. Allora, direi che qui abbiamo un testo che in realtà è non una riforma, è un testo che è niente di più che non una onesta procedura molto complicata, molto riservata, molto oscura, un'onesta procedura di manutenzione. C'è una manutenzione dello statuto per alcune cose che potrebbero essere in realtà anche accettabili, no? Per esempio, gran cancassa sulla questione dell'ambiente, ma l'ambiente, così come i contratti pubblici, così come la gestione del territorio, è tutto sempre legato alla situazione provinciale, solo quello di interesse provinciale è competenza della provincia. E allora non è niente di più di quello che già c'è, praticamente, no? Ma teniamo conto di questo fatto che l'Europa oramai ha, non solo in ambiente, non solo in termini di commercio e quindi anche di prezzi e di trasferimenti, ma in quasi tutti i temi nevralgici dell'amministrazione provinciale ha la competenza primaria, addirittura precedente e suprema rispetto alla stessa Costituzione italiana, no? Con le sentenze della Corte di Lussemburgo che una volta emesse hanno aboliscono immediatamente la legge stessa. Non è che si debba passare attraverso un processo di carattere costituzionale. Quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione che ormai ha un castello di cui qui non ci si rende conto. E sembra che sia importante avere la gestione dell'orso. Allora, in realtà, come ho detto, questo crollo verticale di tensione rispetto alle iniziali pretese, che poi erano più provocazioni che non delle concrete aspettative, perché era chiaro che non potevano passare, oggi viene questo crollo, diciamo, questa semplificazione, questa banalizzazione delle regole statutarie, viene per buona parte passata come un grande successo, ma in realtà questo non è un successo, se non quello che dicevo prima, cioè la trasformazione dei 4 anni in 2 anni. Dopodiché lo statuto rimane sempre con un enorme vulnus democratico. Qual è il vulnus democratico enorme? Che noi abbiamo uno statuto che è una Costituzione, uno statuto che però è, per così dire, talmente povero da essere vuoto dal punto di vista dei principi, no? Voi solo pensate, questo adesso metterò qualcosa per iscritto, ma voi pensate che la Costituzione nel titolo quinto riformato appunto nel 2001, per quanto riguarda i comuni, afferma il principio per cui il comune ha una propria autonomia. Il comune deve favorire l'autonomia e l'iniziativa dei cittadini singoli associati per interessi e attività generale in base al principio di sussidiarietà. Gli enti locali, la regione e la provincia in particolare, devono intervenire per garantire, per esempio, la parità uomo-donna. Cioè, noi abbiamo, se voi vedete gli articoli 117, 118, 119 della Costituzione vigente ormai dal 21, abbiamo una serie di affermazioni impegnative, che è l'orizzonte dei diritti che si è enormemente allargato. Questo orizzonte non è assolutamente preso in esame da questa riforma, non se ne parla neanche. Per quanto riguarda i comuni nello statuto sono banalizzati semplicemente dal punto di vista dell'ente locale, articolo 61, nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite norme di assicurare la rappresentanza proporzionale. Il problema del comune, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, ma la regione stessa, è soltanto quello di metterci la rappresentanza proporzionale. Dopodiché c'è anche la modifica per cui si consente di fare delle votazioni per aumentare la partecipazione della componente minoritaria linguistica. Scusate, adesso io però non voglio dilungarmi oltre perché non vorrei entrare più nel dettaglio. Voglio soltanto dire una cosa, ed è quello che deriva dal dibattito costituzionale. La nostra autonomia regionale non è figlia dell'accordo Gasperi-Gruber. Questa è una truffa storica, non è figlia d'accordo di Gasperi-Gruber. La nostra autonomia è figlia della iniziativa del Comitato di Liberazione Nazionale nell'immediato indomani della fine della guerra. Allora noi abbiamo avuto il primo progetto di autonomia territoriale che comprendeva l'intera regione con alcuni degli istituti che oggi troviamo ancora nello statuto, fatto dal CLN Trentino, portato direttamente dal comitato composto da 6 partiti, c'era anche il partito d'azione, comporto direttamente al presidente dell'epoca, Ora, questa posizione entra direttamente in Costituzione, entra in Assemblea Costituente e viene approvata la norma, che è quella che attualmente c'è ancora nell'articolo 117, la norma che stabilisce che le autonomie di queste regioni sono autonomie speciali, dà un dibattito molto importante, al quale prende parte anche Dossetti, per esempio, ma poi sono i grandi costituenti dell'epoca, Ambrosini e altri, Mortati, un dibattito molto importante in cui viene definita che la regione, la nostra regione, l'intera regione nostra, ha diritto di avere un'autonomia speciale. Perché? Lo dice in maniera molto convincente uno dei tre deputati della Costituente, che è Luigi Carbonari, della DC, assieme alla Conci e assieme a De Gasperi, i tre di Trento. I Bolzanin non ci sono perché non, a quell'epoca non si poteva ancora votare per l'Assemblea Costituente a Bolzano, no? La situazione internazionale era ancora abbastanza imprecisa. Quindi il dibattito fatto in Assemblea Costituente da Carbonari afferma il diritto delle popolazioni delle valli alpine, comprese trentine e tirolesi, ad avere un'autonomia speciale per le ragioni dell'autonomia della storia, per le ragioni del loro senso di indipendenza, per le ragioni della loro capacità di autogoverno e la loro capacità di essere presenti. E ottiene il risultato. Il risultato è che già prima che entrasse poi la proposta di De Gasperi, che tiene conto dell'accordo Gasperi-Gruber, quindi introduce nel primo statuto già le norme di tutela della minoranza linguistica tedesca, già prima noi abbiamo la regione speciale Trentino-Alto Adige. Questo mi pare che sia importante. Cioè la nostra autonomia è la figlia della rivendicazione ideale dell'indomani della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Questo mi pare che sia una cosa da tenere presente. Io mi fermerei qui se voi credete, però se c'è interesse a proseguire su qualche tema io ci sono. Grazie. E adesso abbiamo ancora una decina di minuti, un quarto d'ora, così spero che ci sia qualche spunto, sia stato sollevato qualche spunto così di domande o di interventi a proposito di questa sorprendente anche ultima dichiarazione di Gianni Lanzinger, sorprendente rispetto a quello che dicono le cronache di questi giorni, che invece glorificano insomma tutto questo tipo di intesa chiamata da alcuni anche riformetta, da alcuni mutamento, conversione. Io sono rimasto effettivamente molto sorpreso da questi risultati, anche perché i soggetti che lo compongono e lo portano avanti e lo rivendicano erano soggetti che non rientravano insomma nelle linee prevedibili nei decenni precedenti di interscambio e di intesa. Anzi, adesso vedere la signora Biancofiore che gioisce accanto a Compatcher per questa raggiunta autonomia che porterà un vantaggio a tutti, mi sorprende francamente, avendo vissuto tanti anni da sempre qui, non vedevo questo tipo di paradigma e di schema politico. Mi domando ancora personalmente cosa è successo esattamente. Gianni Lanzinger ci ha fornito una ipotesi di quello che può essere successo. Adesso vedremo come procedono queste trattative e soprattutto questo iter che è ancora alquanto lungo, insomma siamo appena alla prima battuta come dicevi tu, e accolgo senz'altro l'invito che ha fatto l'avvocato Lanzinger anche di farci sentire. Fino adesso purtroppo queste cose sono andate avanti nel silenzio completo. Purtroppo l'esperienza di un'autonomia partecipata che c'era stata con la convenzione del 2016-2017 era finita male, diciamo così, non era stata assolutamente recepita dal mondo politico e non aveva neanche dato i frutti che si speravano dal basso. E ora ci troviamo in questa situazione in cui lo scambio anche politico, diciamo, della giunta provinciale locale di 2 anni fa, fatta col governo nazionale del centrodestra, sembra aver dato determinati frutti, che siano frutti avvelenati o meno, dipende un po' dalle circostanze e dipende anche forse da noi che non lo siano troppo avvelenati. Intanto, ecco, ripeto, c'è stato forse qualche intervento che ha sollevato anche da parte nostra e vostra qualche spunto che cerchiamo di raccogliere velocemente, ma abbiamo ancora un po' di tempo, vero dottoressa? Abbiamo ancora un po' di tempo, ecco, quindi... Giusto dire una cosa molto breve, confermo quello che ha detto l'avvocato Lanzinger, lavoro per l'Agenzia per l'Ambiente da 30 anni, la riforma interesserà anche il tema della tutela dell'ambiente, ma diciamo quella che viene venduta per una gallina dalle uova d'oro si rileva per un ovetto Kinder, ecco, questo per usando una metafora un po', effettivamente è così, non siamo nel mondo di 20 anni fa, io 20 anni fa ho scritto la legge provinciale sulla gestione dei rifiuti che ci dava dal punto di vista operativo un certo margine, adesso quando mi chiederanno di scriverla nuova il margine sarà questo, ecco. Sì. Quindi posso solo confermare quello che ha detto l'avvocato Lanziger, lo viviamo anche noi dal punto di vista operativo. Grazie. Abbiamo la professoressa Baroncelli. Volevo innanzitutto ringraziare l'avvocato Lanzinger per il suo infaticabile lavoro di studio dell'autonomia, perché effettivamente questo collegamento con l'elemento l'ancoraggio internazionale o no è molto importante. Perché? Per capire di chi è lo statuto, di chi è l'autonomia fondamentalmente, magari appunto se ci offre un approfondimento su questo. Perché quello che c'è scritto anche negli accordi internazionali di cui si parla, De Gasperi Gruber, è l'ancoraggio dell'autonomia, la tutela della minoranza linguistica tedesca fondamentalmente, no? E quindi... è questo il problema di concezione dell'autonomia dello statuto? Perché di chi è l'autonomia fondamentalmente? È da lì che poi deriva questo problema di democrazia, se si vuole, di partecipazione, di capire in che modo esprimere dei valori all'interno dello statuto, perché come giustamente ha detto nelle altre regioni anche a statuto ordinario ci sono dei valori nel preambolo, il riferimento alla persona, soprattutto alla cultura, all'identità di un popolo, ecco, e cosa che manca molte volte nello statuto, che si cerca di portare avanti più dal punto di vista, mi pare, economico che è sentimentale, come l'ha definito lei. Ecco, magari se ci vuole un po' approfondire questo punto molto interessante. Una cosa che è chiara, una cosa che è chiarissima leggendo, ma non ci vuole una competenza giuridica. Io poi ho una esperienza in materia di rapporti di lavoro, perché la mia attività professionale è giuslavorista. E quindi mi rivolgo a tutti quelli che sono in qualche modo dipendenti pubblici provinciali per chiedere se è possibile che la provincia si sostituisca al Parlamento per quanto riguarda i contratti di lavoro. Cioè, signori, noi abbiamo una legge che è la legge, il testo unico sull'impiego pubblico, che ha abolito, salvo alcune eccezioni, ma ha abolito la natura pubblicistica del rapporto di impiego pubblico, no? Salvo quanto previsto dal testo unico. Dice chiaramente, per quanto riguarda l'impiego pubblico, comprese le autonomie, naturalmente, si applica il codice civile e le leggi sul lavoro. Questa è un'affermazione perentoria che addirittura è un principio generale. Allora, mi volete spiegare come si dovrebbe poi arrivare a gestire il vostro rapporto di impiego quando si dice che la provincia di Bolzano si arroga la capacità di fare le leggi anche per quanto riguarda l'impiego noi abbiamo lo statuto che stabilisce che le province e la regione ha competenza primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali del personale ad essi addetto, no? Questa è l'affermazione che è in capo all'articolo 4 e 8, competenza primaria. Qui loro avrebbero ottenuto di modificare questo articolo aggiungendo la potestà di emanare norme legislative sostituite alle seguenti: competenza legislativa esclusiva, competenza esclusiva, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva. Che cosa significa? La disciplina del rapporto di lavoro è una questione che riguarda le competenze primarie dello Stato, indifferibili, che è l'articolo 117, che stabilisce che lo Stato ha la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. Cioè, vorrebbe dire che qui in provincia facciamo un altro codice civile? Perché siccome abbiamo detto che è privatizzato l'impiego, si applica il codice civile e le leggi sull'impiego, no? No, vorrebbe dire che non si applica la legge 300? Che la provincia potrebbe derogare alle leggi sull'impiego per quanto riguarda gli impiegati pubblici? Cioè, capite? Sono affermazioni che dal punto di vista tecnico sono un non senso. Mi domando chi era lì a fare il giurista. Ma questo però è una valutazione minimale, perché, ripeto, l'autonomia non è il vincere le cause. Quello che io leggo attraverso quello che hanno ottenuto, altro è quello che pretendevano, io l'ho subito pensato che era assolutamente fuori di logica. Tra l'altro, tanto per dire, avevo fatto mandato la mia riflessione ad Amato, mi ha risposto dicendo: guarda, quello che tu dici è talmente ovvio che è imprescindibile rispetto ad una riforma dello statuto, voglio vedere il governo come farà ad approvare quella cosa, no? Bene, ma però il punto fondamentale qual è? Il punto fondamentale è che qui abbiamo una persona sola, non al comando, ma a trattare sulla riforma dello statuto, sola, con quali consulenti? Io mi domando chi erano le persone che lo accompagnavano, forse la Pacher, che è ancora convinta che l'autonomia sia solo per il gruppo di lingua tedesca, come ha scritto, no? La professoressa Pacher. Allora, chi l'accompagnava? Da quello che risulta qui, mi viene fuori un profilo molto preciso. Qui c'era un datore di lavoro, io ho le cause con la provincia e vedo che la provincia ha difficoltà ad applicare la legge dello Stato, e quindi mi immagino che abbiano detto: scusate, già che ci siamo, perché non facciamo in modo che siamo noi a decidere sulle cause? Hai capito? Qui abbiamo di fronte un datore di lavoro, non un legislatore, intanto, non era un legislatore, ma era un funzionario, comunque un governatore. Parliamo dell'esecutivo invece che del legislativo, no? Lui non rappresentava il Consiglio, ma rappresentava la Giunta, ok? E di fronte aveva il governo, non il Parlamento. Bene. Ma lui si presenta non come legislatore, ma neanche come garante degli equilibri tra cittadino e potere pubblico. Lui si presenta come datore di lavoro, come responsabile degli appalti, perché fa un discorso per quanto riguarda gli appalti pubblici, i contratti di appalto, dicendo che la competenza è nostra, come cacciatore, no? Ovviamente come, se non cacciatore, se non lui, ma meno Fugatti, cacciatore di orsi, quando vanno a disturbare i valigiani. Cioè, lui si presenta come parte in causa ed ottiene delle soluzioni che sono soltanto, quello che lei dice è perfettamente corretto, che sono soltanto delle apparenze, perché noi abbiamo una legge nel 91, la legge sulle aree protette, che mica può essere messa in discussione qui in provincia di Bolzano, anche perché poi in materia di ambiente, a parte la tutela che viene dalle normative generali, e c'è un principio fondamentale che non viene toccato, che è quello stabilito dall'articolo 17, dove si dice che comunque lo Stato ha evidentemente una competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale intero. Quindi questa competenza comunque lo Stato ce l'ha sempre, no? Voglio vedere se possono mettere in discussione le tutele ambientali dell'agenda 2000 dell'Europa, per esempio. Cioè, qui abbiamo di fronte una persona, penso, una persona che è molto limitata nella propria cultura giuridica, nella propria cultura costituzionale, non parliamo poi nella cultura invece fondamentale. Io credo che, per esempio, sarebbe molto utile che chi va a trattare avesse letto qualcosa in più, per esempio avesse letto quello che Habermas, filosofo tedesco, scrive in temi di riflessione anche di carattere costituzionale sul problema di quello che chiama un costituzionalismo democratico. Ecco, anche soltanto dire qual è l'orientamento sulle autonomie nel mondo di lingua tedesca, no, bisogna avere qualche minimo, e questo non c'è. Scusa, già, abbiamo poco tempo e c'era ancora Paolo che voleva intervenire un secondo, grazie. Certo. Beh, intanto grazie per le signore, per il loro intervento e ovviamente anche per il tuo, perché è sempre molto, hai una competenza che hai dimostrato negli anni, quindi ascoltarti comunque fa sempre piacere. Vado proprio a ruota libera, l'altro giorno ero presente a Regina al Cristallo alla presentazione del libro, cioè del libro dell'onorevole Postal, però era l'occasione per la quale poi erano presenti sia il presidente Compacer che Fugatti. E lì chiaramente Compacer non ha fatto altro che nel suo quarto d'ora di intervento a difendere tutto quello che sta portando a casa. Ha rifatto esattamente il discorso che ha fatto a Varna per dimostrare che stava portando a casa un grande risultato. Questo è quello che ha fatto. Fugatti invece sull'orso è stato simpatico, perché a un certo momento ha detto: poi adesso riprendiamo le competenze e gli oneri che noi abbiamo per tutelare i nostri cittadini nelle valli, però dopo prima o poi scopriremo come mai questi orsi sono sempre solo nel Trentino, non sono mai nell'Alto Adige, quindi era come se stesse dicendo forse di là li sparano, eccetera. È stato molto importante il ricordo del mulino, del convegno del mulino, che è stato fatto poi addirittura nella sala consiliare provinciale, negli stessi giorni in cui 4 novembre ancora c'era la sfilata in corso Italia, quindi un bel coraggio anche a quel tempo. Importante perché se la storia è importante, dobbiamo dire che in quello stesso anno, a giugno, c'era stata la notte dei fuochi. Ad agosto si alzava un muro a Berlino, perché poi la gente si dimentica i politici di allora in che contesto internazionale avevano in cui lavorare. E il primo di settembre, però, mi permetto, che uno Stato che già aveva capito che le cose non stavano andando bene, era già partita la causa a livello di New York, ha aperto poi la Commissione dei 19. E la Commissione dei 19 non puoi aprirla tra luglio e agosto, dove l'Italia si ferma. Vuol dire che l'Italia democratica, nata dalla Resistenza, aveva già incominciato a capire qual era la strada da percorrere. Quindi quello è importante. Poi a novembre arriva il convegno del mulino, che se qualcuno ha voglia di andarsi a leggere il libro, che c'è anche qui nella biblioteca, ci sono pochissimi esemplari, è importante perché se vai a vedere i due interventi di Magnago, perché l'ha fatto nell'apertura e poi nelle conclusioni, vai a leggere il concetto di autonomia territoriale e tutta la storia. E quindi da questo punto di vista il fatto di avere un'autonomia che sia un'autonomia territoriale per tutti e non soltanto una salvaguardia o un rimettere a posto i conti con la minoranza di lingua tedesca, questa è alla base. La signora, come si dice, Biancofiore adesso è a favore di questa riforma. Diciamo che, tenendo conto che a suo tempo, quando è stato approvato il secondo statuto di autonomia, e quindi adesso con un governo della signora Meloni che si rifà al movimento sociale, arrivare a dire a quei tempi per 16 ore, perché non erano contingentati gli interventi, Mitolo entra e va, Almirante, scusate, entra in Parlamento e per 16 ore parla contro lo statuto, e adesso una figlia di quella filosofia si incarica e si prende diciamo, l'onere, ma anche il merito di fare una riforma ancora dello statuto, vuol dire che però a quei tempi qualcuno aveva lavorato bene e che finalmente questa convivenza, e su questo sono d'accordo sul fatto che uno statuto non può essere solo una massa di norme, ma ci deve essere la cultura sotto dell'autonomia, comunque sono meno pessimista, vuol dire che alcuni passi sono stati fatti, perché altrimenti questa parte non l'avrebbero fatta assolutamente. Cioè, lo so che sono al governo, però si stanno assumendo le loro responsabilità anche di fronte alla storia, finalmente danno ragione a chi a suo tempo aveva faticato per questo. Volevo aggiungere, sì, questa riforma è chiaramente, nessuno parla più di terzo statuto, perché ovviamente nemmeno i giornalisti hanno più il coraggio di scriverlo, perché hanno capito che poi alla fine si stanno portando a casa pochissime cose che sono effettivamente tutte quelle competenze che la Corte Costituzionale negli anni aveva tolto. In un pamphlet dell'avvocato Palermo però c'era un bellissimo dato che mi ha colpito, cioè il fatto che l'emanazione di leggi da parte delle varie regioni, che poi passano al vaglio anche della Corte Costituzionale, gli incidenti che sono provocati e che vanno in Corte Costituzionale, noi siamo intorno al 70%, le altre regioni ce l'hanno ancora più alto. Quindi da questo punto di vista vuol dire che la Corte Costituzionale non ce l'aveva esattamente, o non ce l'ha esattamente con la nostra provincia autonoma, ma ce l'ha un pochino con tutti. Questo non vuol dire che, comunque è chiaro che hanno cercato con quell'escamotage appunto della commissione dei 6 e dei 12 di arrivare quantomeno a escludere il più possibile l'intervento della Corte Costituzionale, e per fortuna non è andato. L'elemento principale è chiaramente, noi nello statuto del 72 non abbiamo i principi generali, noi abbiamo, perché secondo me per fortuna ci si rifaceva ai principi generali di quello che era la Costituzione italiana. Infatti la provincia per fortuna quando emette questo, emette la prima cosa sono l'accordo De Gasperi-Gruber, poi c'è la Corte Costituzionale e dopo finalmente mette lo statuto. Quindi per fortuna, diciamo, a quei tempi non l'hanno fatto perché c'era già la Costituzione, ma probabilmente perché a quei tempi sarebbe stato quasi impossibile sedersi, perché mancava una memoria condivisa che avrebbe permesso al legislatore di scrivere quei principi che adesso nelle varie regioni riescono a mettere. Ci sarebbe tantissimo altro da fare, erano solo qualche appunto. Grazie. Grazie Paolo. Penso che a sto punto, se non ci sono altri interventi... Ma io volevo solo chiedere un'informazione e una domanda a Franziska Conte, che mi ha suggerito anche Stefania Baroncelli, puntando di nuovo l'attenzione sulle donne, e in particolare per capire questa ricerca che lei ha fatto sulle figure femminili, che è interessante, poi emergono appunto delle donne che io almeno non ho mai sentito nominare, anche non necessariamente delle laiche, ma anche delle persone che hanno scelto una via, una confessionale, insomma hanno fatto una scelta anche precisa, e questo aspetto della cura. Se questa ricerca viene diffusa, viene, appunto lei diceva che ha un testo molto corposo, se può darci delle informazioni in più, anche perché vorremmo valorizzarla, no? Questa cosa, grazie. Allora, in realtà per l'attimo è disponibile soltanto una versione online in tedesco, anche perché il progetto, diciamo, dato che è nato come progetto politico, quello che è successo è che è stato assegnato a noi l'incarico di realizzare questo progetto, è stato finanziato, diciamo, in realtà soltanto il mio posto da ricercatrice, e per quanto riguarda la stampa dell'opera stessa, anche la diffusione dell'opera stessa, non abbiamo ricevuto dei fondi. Quindi finora ci siamo limitati a renderlo disponibile online, stiamo adesso vedendo di realizzare una traduzione, però comunque sarà sempre un'opera disponibile soltanto online. E anche perché appunto è un manuale che mira alla politica e quindi il nostro pensiero anche è quello di renderlo disponibile al maggior numero di persone possibile, non stampandolo e quindi non vendendolo, ma dando un accesso libero su internet. Benissimo, grazie. E speriamo ovviamente di poterlo. Io sono sempre molto contenta di inviti del genere, perché ovviamente siamo contenti di poterlo Benissimo. Presentare e quindi poterne anche parlare pubblicamente. Credo che a questo punto possiamo, intanto ringrazio anche per la risposta, vi ringrazio della partecipazione, dell'interesse che avete manifestato e soprattutto ringrazio i nostri ospiti, è stato interessantissimo ascoltarvi. E, ecco, il libro, gli atti del convegno del Mulino ci sono in biblioteca e soprattutto abbiamo anche tante interviste del nostro archivio orale dove, a partire da Lidia Menapace ma anche da altri protagonisti di questo convegno, ci raccontano una parte di questo evento, di questo convegno importante. Mi ricordo una frase che mi aveva colpito molto di Lidia Menapace, che disse: era un tentativo di trasferire su un piano dialettico una bomba che continuava a minacciare di esplodere, ecco, sì, quindi lei così ricorda, ha dipinto questo convegno come, in maniera molto semplice, come diceva prima la professoressa Bigaran, usava anche un linguaggio domestico, non necessariamente sempre difficile e complesso, diciamo che era molto accessibile, ecco, quando parlava Lidia Menapace, diceva, e mi ricordo questa frase che ha detto: abbiamo cercato di trasferire su un piano dialettico una bomba che, ecco, minacciava tutto. Benissimo, allora ecco, grazie ancora a voi tutti.